Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e cominciamo la settimana mettendovi subito di cattivo umore. Prima la chiamavamo finanziaria, adesso la chiamiamo la legge di stabilità, ma è sempre la manovra con la quale lo Stato organizza le sue entrate e le sue uscite. Gli italiani ormai hanno capito quanto questo testo influisca con le decisioni prese dal governo in materia appunto di bilancio sulla loro vita di tutti i giorni. Dopo una lunghissima riunione nella serata del 9 ottobre, lo ricorderete, il Consiglio dei Ministri ha approvato l'ultima bozza che porterà novità non indifferenti per le famiglie italiane, dalla sanità alla pubblica amministrazione. Oggi a Salva Danaio approfondiamo in particolare tutte le notizie relative al fisco, che non sono di poca importanza e di cui dovremmo tenere conto già dalla prossima dichiarazione dei redditi. Proprio così, quella che naturalmente dovrà fare il punto della situazione su tutte quelle che sono state le nostre entrate, le nostre spese di quest'anno. Viene rivista intanto la tassazione diretta. Dal 2013 è previsto un taglio di un punto delle prime due aliquote IRPEF, quelle relative ai redditi più bassi. Mentre l'IVA aumenterà di un punto percentuale sulle aliquote del 10 e del 21%, ma vengono colpiti anche gli sconti fiscali con una franchigia di 250 euro ed è qui che c'è anche un effetto retroattivo che si applica a quasi tutti i tipi di deduzioni e detrazioni e c'è l'introduzione di un tetto massimo di 3.000 euro per queste ultime. Salva Danaio oggi spiega le novità a fronte ai cambiamenti più significativi per il bilancio familiare rispondendo come sempre anche alle domande di voi ascoltatori all'800240024 oppure ci potete scrivere al 349-238-6666, avete anche tutte le altre modalità per interagire con noi, scriveteci a salvadanaio@radio24.it, sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Non vi possiamo sfuggire, così come oggi non vi sfuggiranno Giovanni Parente delle Sole 24 Ore, benvenuto, bentrovato. Grazie Deborah, buongiorno. Con un bel documento in mano, vedo che novità ci porti tra l'altro. Beh, sembra che allora sia stata depositata l'ultima versione della legge di stabilità. Da quello che sembra dalla relazione tecnica è che il tetto complessivo delle spese detraibili, stiamo dicendo, dovrebbe essere calcolato, i 3.000 euro dovrebbero essere calcolati su tutte le spese, non sull'imposta che può essere scontata. Però stiamo leggendo meglio e quindi insomma cercheremo di capire. Siamo ancora nell'ondata delle interpretazioni che peraltro hanno portato forse anche qualche giornale a fare un po' di confusione su alcuni punti, ma non è chiaramente questa la sede per contestare anche l'operato degli altri giornali. È anche comprensibile il fatto che effettivamente è stata un po' una manovra arrivata dopo tante ore di riunione, qualche confusione ci sta anche adesso, però dovremo anche aspettarci qualche chiarimento dai diretti interessati. Luca De Stefani, consulente commercialista, consulente fiscale ed esperto fiscale per il Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, rapidamente, proprio in due secondi, la borsa, perché il tema di stamattina è molto importante, per cui cercheremo di approfondirlo al meglio. Gli indici europei sono in accelerazione, sono partiti bene, ma a metà mattinata hanno messo un po' il turbo a trainare le borse continentali, titoli del settore bancario, assicurativo, media, utilities, e sono appunto buoni gli atteggiamenti, a quanto pare, degli investitori che guardano alla Grecia intanto perché le potrebbe essere dato più tempo per poter sistemare il proprio bilancio. E poi abbiamo naturalmente anche le trimestrali che arrivano dagli Stati Uniti, oggi rassegna i suoi conti Citigroup, e poi abbiamo il vertice europeo di giovedì. In vista di tutti questi appuntamenti oggi l'Europa ha deciso di partire bene. Milano guadagna un punto, bene Mediaset più 3,58%, Azimut più 2,45%, Finmeccanica più 2,10%, mentre in discesa abbiamo Fiat Industrial che perde lo 0,57%, Pirelli meno 0,46%. Rapporto euro-dollaro a 1,29,56, spread fra BTP e Bund sotto i 350 punti base. Questa è la borsa, ma noi andiamo al tema di oggi. Le novità sono tante, ma cercheremo di circoscrivere che cosa cambia nel rapporto fra fisco, contribuenti, fisco e famiglie con la nuova legge di stabilità. Una volta la chiamavamo legge finanziaria, ora, nell'epoca del governo tecnico, è diventata la legge di stabilità. La sostanza non cambia. Si tratta del testo che contiene le regole per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Ed è da questo documento che derivano le regole più importanti che verranno applicate alla vita economica del nostro paese, che permettono di individuare i fondi necessari per gli investimenti e per la spesa del denaro pubblico. A dirla così, sembra di muoversi su un terreno molto alto e lontano dalla quotidianità. Ma ogni famiglia italiana è ben consapevole dell'importanza di queste decisioni che andranno a influire direttamente sul proprio bilancio. La versione più recente della legge di stabilità è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, dopo una lunga riunione, nella serata di martedì 9 ottobre e contiene misure che vanno a toccare vari aspetti delle finanze italiane. Dai tagli alla sanità alla tassazione delle rendite finanziarie, dai pagamenti della pubblica amministrazione ai controlli sui bilanci degli enti locali. Ma la voce che interesserà il maggior numero di italiani è sicuramente quella relativa al fisco. Viene rivista, infatti, la tassazione diretta. Dal 2013 è previsto un taglio di un punto delle prime due aliquote IRPEF, quelle relative ai redditi più bassi, mentre l'IVA aumenterà di un punto percentuale sulle aliquote del 10 e del 21%. La legge di stabilità va inoltre a colpire gli sconti fiscali. Dalla bozza di legge circolata nelle ultime ore risulta infatti l'introduzione di una franchigia di 250 euro, da applicarsi a quasi tutti i tipi di deduzioni e detrazioni. Per le detrazioni viene inserito inoltre un tetto massimo di 3.000 euro. Non va sottovalutato, infine, e questo è sicuramente il punto che più sta facendo discutere, che quei tagli alle agevolazioni sono previsti con effetto retroattivo e varranno quindi già dalle dichiarazioni dei redditi relative a quest'anno. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci al 349-238-6666, il nostro indirizzo di posta su Facebook, su Twitter. C'è un ascoltatore che subito ci scrive: ricevo un assegno vitalizio a titolo di risarcimento per la morte di mio padre vittima del dovere, e per questo era questo assegno, appunto, questo vitalizio esente IRPEF, lo sarà ancora. Magari, Giovanni, possiamo ricordare che adesso saranno soggetti ad IRPEF le pensioni di guerra e di invalidità. Anche in questo caso, questo vitalizio, appunto, di questo nostro ascoltatore che riceve per la morte di suo padre, sarà tassato? Allora dobbiamo guardare meglio nella bozza del disegno di legge per capire che cosa è successo. Se è stata fatta molta confusione, non dovrebbe esserlo, quindi insomma, però aspettiamo di guardare meglio nelle bozze, perché chiaramente qualcosa è cambiato nelle ultime ore, quindi dobbiamo cercare di stabilizzare un po' il deve test. Pazientare. Qualora lo fosse questo assegno, questo vitalizio che questo nostro ascoltatore percepisce, in ogni caso da quando verrà applicata la nuova tassazione? Essendo un contribuente, comunque essendo un pensionato, credo già dal prossimo anno di imposta, ce l'avrò dalla Generazione 73. Allora, Luca De Stefani, abbiamo già detto che naturalmente molti aspetti vanno ancora chiariti e speriamo appunto che il governo lo faccia a più presto. Quali sono i temi che hanno generato anche tra voi professionisti le maggiori perplessità o anche una confusione? Perché poi, anche se siete molto preparati sugli argomenti, non è detto che il primo impatto sulle novità fiscali non possa generare anche in voi qualche momento di perplessità e confusione. Non è chiaro come si applichi la nuova franchigia dei 250 euro, in quanto prima dell'approvazione di questa nuova manovra era già prevista per alcune determinate tipologie di spese un'apposita franchigia. Penso ad esempio alle spese mediche. Le spese mediche e sanitarie potevano essere detratte al 19% solo se superavano i 129 euro. Ora, da qualche giorno, da quando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto, con decorrenza da quest'anno, vi sarà una nuova franchigia che si sommerà come normativa a quella precedente, anzi si affiancherà, direi. Perché secondo qualche autorevole autore, la franchigia nuova di 250 euro dovrebbe essere sommata a quella dei 129 euro. Io ritengo, e anche molti altri colleghi che del giornale hanno scritto in questa maniera, che le franchigie sono separate e quindi quella di 129 euro si applica solo per i soggetti che hanno un reddito complessivo inferiore ai 15.000 euro, mentre per chi ha un reddito complessivo superiore ai 15.000 euro la franchigia vecchia non si applicherà più, ma si applicherà solamente quella nuova da 250. Quella nuova. Esattamente. Giovanni, volevi aggiungere qualcosa rispetto a quello che stava dicendo Luca De Stefani? No, tutto corretto, tutto giusto. Ricordiamo soltanto che, anche per non creare un'ansia eccessiva, finora siamo a un livello di disegno di legge, nel senso questo è un disegno di legge che il governo adesso presenta al Parlamento e quindi dovrà farsi l'iter di approvazione. Vedremo che cosa succederà dalle avvisaglie politiche. Quei due o tre emendamenti che verranno presentati, appunto, che dovranno essere gestiti poi durante il cammino parlamentare. Qua di solito viaggiamo sull'onda di, appunto, centinaia di interventi parlamentari, giustamente stanno anche lì per quello, per emendare e per correggere il cammino quando qualcosa non funziona, anche se poi non è detto che ci riescano. Allora, quindi questa è la prima cosa, appunto, importante. Dal prossimo anno abbiamo però anche una riduzione delle aliquote IRPEF per i redditi bassi, Giovanni Parente. Esatto, l'aliquota IRPEF scenderà dal 23 al 22% sullo scaglione di reddito fino a 15.000 euro e dal 27 al 26% per lo scaglione di reddito da, appunto, 15.000 a 28.000 euro. Attenzione, anche in questo caso è chiaro che ne saranno avvantaggiati coloro che sono in questi due scaglioni di reddito, ma anche quelli che sono sugli scaglioni superiori, perché per la progressività dell'IRPEF una quota del reddito, insomma, anche per gli scaglioni superiori si paga con il 23, 22 e il 27, 26. Allora, naturalmente questo intervento, che era stato, è di prima acchito, non può essere che considerato positivamente. Già chiaramente il primo commento che è stato fatto è che verrà vanificato qualunque beneficio di questo tipo, appunto, di riduzione fiscale dall'aumento dell'IVA, che sarà in vigore invece a partire dal 1 luglio del prossimo anno? Assolutamente sì, cioè, scatterà un doppio aumento dell'IVA. Scatterà l'aumento dell'IVA sui beni al 21%. Tanto per essere banali, i beni di abbigliamento, o anche gli elettronici, insomma, o anche la prestazione di un professionista, e sui beni che sono dal 10 all'11%. Attenzione, perché in questa fascia di beni la legislazione IVA italiana è anche molto complicata, rientrano tanti beni di consumo, ad esempio c'è il latte, c'è lo zucchero, che quindi potrebbero subire un aumento anche dell'IVA. Qual è il problema principale? Che si dice l'aumento dell'IVA è generalizzato, colpisce tutti, rischierà di mangiarsi i possibili risparmi fiscali che avremo sull'IRPEF. Comunque non si poteva fare tutto perfettamente, speriamo, come molti hanno detto, che il governo dei tecnici abbia pensato anche a tutti questi aspetti. Arriverà, io questo stamattina di tema non vorrei toccarlo, perché vorrei magari approfittarne per dedicarci una puntata apposita, la Tobin Tax. Ci sembrava un provvedimento così complicato e lontano da applicare su chissà quale tipo di transazioni finanziarie così lontane da noi, Giovanni, in realtà non sarà così, perché forse riguarderà anche direttamente i piccoli risparmiatori l'applicazione di questa nuova tassa, e tra l'altro anche sulle transazioni finanziarie, sui prodotti di investimento. Già molte rimodulazioni sono arrivate negli ultimi tempi, adesso non le ricordiamo, ma sulla Tobin Tax che cosa c'è da dire? Cioè, la tassazione è lo 0,05%, sostanzialmente una sorta di contributo di solidarietà per chi in qualche modo ha delle rendite finanziarie, che si va, però diciamolo Deborah, ad aggiungere a un fatto che l'Italia ha rimodulato appena un anno fa la tassazione sulle rendite, quindi insomma, questo complicherà sono state portate, però, un pochino le cose. Sì, sono state portate dal 12,5 al 20% ad esclusione dei bot di titoli di Stato. E in più anche i prelievi straordinari. Dobbiamo ricordare che però la Tobin Tax vedrà l'esclusione dei titoli di Stato. Esatto, come segue lo stesso indirizzo che ha avuto per l'aumento della tassazione. Ci pensiamo però la settimana prossima con una trasmissione apposita. Rimaniamo adesso appunto alle questioni fiscali, alla dichiarazione dei redditi. Volevo con Luca De Stefani un attimo ricimentarmi, come sempre facciamo quando ci occupiamo di questa argomento, perché ce lo stanno chiedendo molti ascoltatori, nella spiegazione della differenza fra la deduzione e la detrazione. De Stefani, così una volta per tutte entra in testa anche a me, e chissà che non riusciamo a compiere questo miracolo. Allora, le spese detraibili sono quelle che vengono detratte solitamente al 19% dall'IRPEF, dall'imposta, quindi sono delle spese tipo le spese mediche, dove il 19% dell'importo della spesa sostenuta viene detratto, cioè tolto direttamente dall'imposta IRPEF. Le spese deducibili invece sono quelle spese che si deducono, quindi si tolgono dal reddito complessivo, quindi prima di calcolare. Si abbatte la base imponibile nella sostanza. Si abbatte la base imponibile, esattamente. Quindi sono molto collegate anche all'aliquota fiscale tipica, perché se non ho molti redditi e ho un'aliquota del 23 o comunque del 22%, ecco che un onere deducibile mi dà un 100 euro di onere deducibile, mi dà un vantaggio di 22 euro mentre se è un'aliquota molto più elevata, quella massima è del 43%, un onere deducibile di 100 euro mi dà un vantaggio di 43 euro. Allora, ci sono già delle domande di alcuni ascoltatori. Marco da Brescia, Francesco dalla provincia di Milano, tantissimi i messaggi, ci sono molti ascoltatori che evidentemente ognuno interessato ad un campo specifico ci chiede appunto di spiegare che cosa cambierà. C'è chi ci chiede naturalmente se cambierà qualcosa per gli incentivi alle ristrutturazioni, ai lavori di risparmio energetico, cosa cambia per le polizze vita, il TFR qualcuno cita, e poi altre domande, adesso li sentiremo tutti quanti. Questa mattina con Giovanni Parente del Sole 24 Ore, con Luca De Stefani, esperto fiscale sempre per il Sole 24 Ore, stiamo spiegando che cosa cambia per il fisco dei contribuenti italiani e delle famiglie italiane con la nuova legge di stabilità. E non sono pochi i cambiamenti in arrivo, già a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi, perché naturalmente il fisco per forza di cose sarà molto meno generoso con gli sconti concessi fino a questo momento appunto alle famiglie italiane e ai contribuenti. Tra l'altro, Giovanni Parente, c'è anche un altro aspetto che non abbiamo sollevato ma che ha creato non poco disappunto tra tutti, tra chi si occupa appunto di questo tema, sia per questioni professionali, anche solo come osservatore, il fatto della retroattività, perché si parte da subito, no? Non dal prossimo anno, cioè nel senso che dalla prossima dichiarazione dei redditi, ma sulle spese che abbiamo sostenuto quest'anno e che potremo utilizzare per alleggerire meno la dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Ecco, difatti ci sarà probabilmente uno sfasamento temporale. I nuovi tetti alle detrazioni e alle deduzioni si applicano già da quest'anno l'imposta, quindi vuol dire che li avvertiremo già nel 7.30, nell'unico dell'anno prossimo. Per quanto riguarda invece la riduzione dell'IRPEF, ne beneficeranno quelli che sono, diciamo, lavoratori dipendenti, pensionati, chi fa il 7.30, parliamoci chiaramente, mentre un po' gli autonomi la risentiranno perché ne potranno avere uno sconto soltanto probabilmente nell'unico 2014, ed anche questo è un doppio piano. Ricordiamo che questa riduzione delle deduzioni, questo tetto alle deduzioni, significa che l'anno prossimo molte persone si troveranno a pagare maggiore IRPEF per quanto riguarda la parte degli addizionali regionali e comunali. Ecco, quindi anche questo è un aspetto da non sottovalutare. Poi sicuramente quando parliamo di detrazioni parliamo di spese molto molto diffuse, da quelle sulle spese sanitarie, che però sono in qualche modo escluse dal tetto dei 3.000 euro complessivi di cui parlavamo all'inizio, quelle sulle assicurazioni sulla vita, quelli per gli interessi sui mutui, le spese per istruzione, ma anche quelle per sostenute dai genitori per i figli, per l'iscrizione dei figli a palestre e piscine. Non sportivi. È chiaro, non stiamo parlando di grandi cifre, ma sono tutte piccole cifre che messe insieme comunque consentivano di abbattere l'imposta dovuta. Tutte nel corso di un anno cominciano a significare appunto cifre importanti per le famiglie. De Stefani, volevo chiedere un... Sì, hai terminato. No, scusami Deborah, sottolineavo il problema della retroattività. È un problema serio, cioè nel senso che in Italia si legifera molto spesso così, cioè nel senso si aggira quella norma che è contenuta nello Statuto dei Contribuenti 2000 che vietava la retroattività di nuove imposte. Lo si è fatto molto spesso giustificandolo per ragioni di gettito, di emergenza, per crisi e quant'altro. Ecco, forse bisognerebbe un attimo ripensarci. Posso chiedere anche il parere del professionista su questo, Luca De Stefani? Anche lei ritiene che ci sia stata per l'ennesima volta una violazione dello statuto del contribuente sulla questione della retroattività delle nuove norme? Sì, sicuramente lo statuto del contribuente viene disatteso ormai da quando praticamente è diventata legge, parecchi anni fa. Ci sono moltissime norme, non solamente in ambito IRPEF, ma anche per le società di persone, di capitali, che prevedono la retroattività della norma. E questo è possibile, basta indicare nella norma che in deroga allo statuto del contribuente si fa questa certo, legge. Si può derogare sempre, ovvio, basta che ci metti solamente quella postilla. Esatto, però non serve neanche... Non si vedrebbe neanche ci fosse allora lo statuto del contribuente. Esatto, infatti, se c'è ovviamente la norma che consente di poterla aggirare con serenità. Andiamo allora agli impatti pratici e concreti. Cominciamo con il sentire gli ascoltatori che sono pronti ad intervenire in diretta, poi darò lettura anche se possibile tutti gli altri messaggi, sono davvero tanti quelli che ci stanno arrivando. Allora, era già pronto da un po' Marco da Brescia. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, io sono un profano, quindi abbiate pazienza se magari dico qualche cosa che non è esatta. Però la mia richiesta di parere era questa sostanzialmente. Tutte queste sorprese che i contribuenti si sono ritrovati, quindi la retroattività delle misure della legge di stabilità, il doppio binario che si stabilisce tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, sì. E anche questo non è la prima volta. e il limite dei 3.000 euro sulla deducibilità non costituiscono un concreto incentivo all'evasione? Marco, guardi, qua già Giovanni Parente sorride. Tra l'altro la ringrazio per questa osservazione che apre il campo sicuramente a commenti di vario genere. Il tema un po' sembra, quando parliamo per esempio Giovanni Parente del fatto che molte famiglie, molti italiani non utilizzano ad esempio lo strumento elettronico di pagamento, non si fanno rilasciare lo scontrino perché non c'è più niente appunto di detraibile o deducibile di tutto questo. Effettivamente adesso molti saranno di nuovo così invogliati magari ad andare dal dentista a chiedergli, a dirgli vabbè senti sai che facciamo tanto visto che detraggo sempre meno. Guarda, Deborah, non aggiungo altro, ne abbiamo parlato molte volte quando sono stato ospite da te. Il problema è serio, cioè nel senso queste detrazioni erano state introdotte chiaramente per agevolare il contribuente, poi sono state viste sotto, anche sotto un'altra ottica, anche Luca De Stefano lo sa bene, soprattutto quelle per le ristrutturazioni edilizie, per un contrasto di interessi, cioè per evitare che si faccia del nero. Quindi avere la convenienza da entrambe le parti a fatturare, a dichiarare al fisco l'operazione che è stata svolta. È chiaro che è un rischio altissimo con questa operazione di tetti, perché di fronte a uno sconto immediato, perché la convenienza immediata poi è quella che gestisce le nostre azioni quotidiane, a un medico, ma senza demonizzare i medici, no, gli abbiamo dentisti, fatto per esempio l'esempio più banale, che è quello che ci viene più semplice da fare, quello del dentista, però insomma sono molti altri gli ambiti dove ci viene chiesto guarda non ti rilascio il documento fiscale per la prestazione però te lo metto un po' di meno il lavoro fatto. Preferisco pagare sensiva piuttosto che poi non sapere se riesco a detrarmelo. Ecco, questo purtroppo è il ragionamento di cui, da fronte al quale molti potrebbero insomma essere tentati di scegliere la via del nero. Allora, De Stefani, vuole aggiungere qualcos'altro? Sì, sono perfettamente d'accordo e io presumo che il prossimo anno, quando è aprile o maggio, vi saranno moltissimi lavoratori dipendenti che non faranno più i 7.30, perché io vedo qui anche come esperienza di studio, a volte capita che le detrazioni per il 7.30 sono proprio anche di 20-30 euro, considerando già il costo della valessia del professionista, certo, infatti non conviene. Con questa franchigia di 250 euro si ridurranno veramente notevolmente i contribuenti che avranno convenienza a fare il modello e quindi di conseguenza purtroppo molti preferiranno non chiedere documento fiscale perché poi questo non è più detraibile, purtroppo. Ecco, Francesco dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e innanzitutto i complimenti per la trasmissione. Grazie Francesco. Niente, allora io stavo valutando praticamente l'acquisto di una casa da ristrutturare e quindi beneficiare della agevolazione del 50% fino a 96.000 euro e quindi facendo i miei conti insomma poter detrarre i 4.800 euro all'anno. Adesso se mettono questo tetto di 3.000 euro cosa succede? Credo che l'ambito di cui lei parla sia completamente escluso dall'applicazione di questo tetto, per fortuna Francesco, altrimenti si vanno anche a vanificare tutti gli interventi fatti lo scorso anno, comunque in tempi recenti. Luca De Stefani, visto che questo è il suo terreno, che tutte le volte che facciamo l'alleggerimento fiscale sui lavori di ristrutturazione in casa, lo sa che lei è il nostro ospite di riferimento. Rassicuriamo Francesco? Sì, non ha nessun problema perché la normativa relativa alla ristrutturazione edilizia e quindi alle detrazioni del 36% che sono state aumentate al 50% momentaneamente fino a giugno del prossimo anno è prevista dall'articolo 16 bis del testo unico sulle imposte di redditi, mentre la franchigia di 250 euro e il limite massimo di 3.000 euro di spesa detraibile è prevista solamente per gli oneri detraibili indicati nell'articolo 15 e quindi abbiamo le spese mediche, come si diceva prima. E anche gli interessi passivi sui mutui, se non ricordo male, De Stefani. E adesso diciamo che il problema ci interessa relativamente perché i tassi sono bassi, ma qualora dovessero riesplodere, i mutui a tasso variabile peraltro dovessero riprendere, speriamo di no, a lievitare. Anche lì potrebbe essere insomma una brutta sorpresa per molti contribuenti. Sì, perché si tratta di oneri deducibili indicati appunto in questo articolo e anche in questi casi abbiamo appunto la franchigia iniziale di 250 euro di spesa e di 3.000 euro che dovrebbe essere non di detrazione vera e propria ma proprio di spesa. quindi limite massimo di 4.000 euro che oggi si può detrarre al 19%, verrà nel caso specifico ridotto a 3.000 euro, considerando comunque tutti quanti gli altri oneri. Allora, andiamo a Maria dalla provincia di Monza e Brianza, e tra l'altro lei ci spiegherà il suo caso, a cui poi ci aggiungerò anche quello di un altro ascoltatore, invece Vittorio, che ci ha scritto a salvadanaio@radio24. Maria, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono rimasta veramente scandalizzata dal fatto che vogliono tassare l'accompagnamento per gli invalidi civili. Cioè, io ho una sorella di invalida al 100% dalla nascita, che purtroppo nell'ultimo periodo abbiamo dovuto mettere una casa di riposo, dove spago 2.100 euro al mese, 70 euro al giorno. Con la sua pensione, con l'accompagnamento, già non ci arriva. Dobbiamo metterci intervenire, noi, certo. Intervenire noi per le sorelle. Però adesso, se mi tassano anche questo, mi danno la franchigia sulla quota sanitaria che riuscivamo a detrarre, non lo so dove andiamo a finire. Maria, vediamo adesso qual è la prospettiva che si apre per il suo caso. Vi leggo anche quello di Vittorio, che ci racconta che ha una mamma che è in una struttura pubblica, una RSA, prende una pensione tra la sua e la reversibilità di 960 euro netti, poi essendo da 6 anni su sedia a rotelle percepisce anche l'accompagnamento, che fino adesso non era soggetto a trattenuta, appunto, quindi a prelievo fiscale. Adesso ho sentito che si pagheranno anche le tasse anche sulla parte di assegno di accompagnamento. Corrisponde a verità? Allora, Luca De Stefani, posso chiedere a lei una consulenza sulla questione della nuova tassazione degli assegni di accompagnamento, soprattutto per persone che sono nelle strutture pubbliche? Naturalmente poi devono intervenire anche molto spesso i familiari, che alleggeriscono un po' anche il peso di questi impegni finanziari che sono enormi, come ci raccontava l'ascoltatrice, anche attraverso questi assegni di accompagnamento. Se adesso questi teoricamente indirettamente vengono ridotti a causa della tassazione, è chiaro che poi la questione diventa ancor più frustrante, no? Per coloro che vengono colpiti. Quali sono le novità? Sì, certo, dal prossimo anno queste verranno tassate all'IRPEF. In che misura? Ah, con l'IRPEF normale, quindi con gli scaglioni, fino a 15.000 euro abbiamo il 22% e poi da 15.000 a 28.000 vi è il 26%. Diciamo che mediamente sono sempre al di sotto di questo importo complessivamente, non sono dei grandi introiti per le famiglie, per cui anche se l'aliquota è minima, in ogni caso è una novità, visto che prima non c'era, per cui è chiaro che sarà un peso. Se abbiamo un reddito complessivo inferiore agli 8.000 euro non vi è nessun tipo di tassazione, quindi se questa pensione si cumula con quella dell'abitazione secondaria, ad esempio, o con altri lavori occasionali, non abbiamo nessun tipo di tassazione, perché il reddito complessivo è inferiore agli 8.000. Se superiamo gli 8.000 invece abbiamo le aliquote normali IRPEF. Ci sono degli ascoltatori che chiedono che cosa cambia per le donazioni presso, per esempio, Onlus. Giovanni Parente. Allora, bisogna fare un po' di attenzione, perché alcune nello slalom di norme che sono state introdotte, alcune donazioni saranno soggette ai nuovi tetti di deducibilità e altre invece non saranno soggette. Ad esempio, le erogazioni liberali, insomma, in denaro fino a 1.032 euro a favore dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica non saranno soggette al tetto. Le erogazioni liberali in denaro altri tipi di erogazioni liberali specifiche non saranno soggette al tetto sulle deduzioni, quindi bisognerà fare molta attenzione su quelle che sono le qual è il soggetto destinatario dell'erogazione liberale, quindi delle donazioni, dipenderà molto da quello, insomma, e quindi se c'è una domanda specifica poi possiamo ricondurla alla tipologia di esclusione o di inclusione che è stata prevista dalla nuova disegno di legge stabilità. Tutte le volte che ci siamo occupati a Salvadanaio, ma non solo, io l'ho sentito anche naturalmente in altri contesti, che ci siamo occupati appunto di previdenza complementare, abbiamo sempre enfatizzato la questione della tassazione incentivante, no? Per chi decide di dirottare parte del proprio trattamento di fine rapporto su questi strumenti che andranno un domani, speriamo, ad integrare in maniera dignitosa la pensione pubblica che si percepirà. Chissà se cambia qualcosa anche da questo punto di vista, il fisco diventa meno generoso anche con questi strumenti. Osvaldo dalla provincia di Vicenza credo che se lo stesse chiedendo. Osvaldo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, grazie per l'opportunità che mi date. Grazie a lei. Io volevo fare una domanda, appunto. Io prendo ogni anno un fondo pensione di il massimo che si può dedurre, mi sembra che sia 5.130 euro, no? Ecco, e si deduce in base all'aliquota IRPEF che si paga. Adesso con questa nuova legge che c'è, viene anche lì applicata la franchigia dei 250 allora, euro? Allora lei, Osvaldo, praticamente alimenta un fondo pensione e chiaramente riesce ad ottenere il massimo beneficio fiscale. Giovanni, Luca De Stefani. Luca. No, non è colpito dalla stretta che riguarda gli oneri deducibili, in quanto la franchigia di 250 euro si applica per altre tipologie di oneri deducibili, ma non per i versamenti che lui fa al fondo pensione, che hanno un limite massimo di deducibilità esattamente annua di 5.164 euro. Cambia qualcosa anche per i contributi previdenziali ed assistenziali che sono versati per esempio per i collaboratori domestici? Per le colf, per le colf sì, non abbiamo nessun tipo di limite, in quanto il limite è sempre di 1.500 euro all'incirca, sia per colf, badanti e babysitter non cambia nulla, quindi si possono continuare a dedurre. Allora, visto che sto inanellando tutte quelle situazioni che non sono oggetto di cambiamento, andiamo invece magari a spiegare, se ne è rimasta qualcuna fuori, le situazioni diverse che saranno oggetto invece di una sorta di inasprimento fiscale, perché appunto le spese da dedurre o detrarre saranno inferiori. Giovanni, che cosa mi sono dimenticata? Magari c'è qualche tema che c'è sfuggito e che vale la pena spiegare ai nostri ascoltatori? Probabilmente sì. Sì, no, diciamo che purtroppo, ad esempio, rientrano nel nuovo tetto di 250 euro sulla deducibilità, ad esempio, gli assegni versati al coniuge, che sono diversi dagli assegni di mantenimento ai figli. Attenzione, sarebbero gli alimenti al coniuge, tanto per intenderci, ma riguardano lì una fascia un po' più ristretta di separati e divorziati, quindi insomma in qualche modo almeno questo, cioè c'è un attenuamento. Quindi chi versava praticamente un assegno, un alimento al coniuge, prima poteva dedurre senza il plafond dei 250 euro, invece adesso dovrà rispettare i 200, dovrà prima ammortizzare i 250 euro e sopra i 250 euro potrà dedurre e poi calcolare la deducibilità. So che molti professionisti, De Stefani l'ha fatto anche lei perché stamattina mi ha mandato un po' di materiale, ha sollevato questa incongruenza anche un po' folcloristica sulla questione appunto delle spese veterinarie che possono essere naturalmente sostenute, che possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi. L'importo in questo caso mi sembra possibile piuttosto alto. Sì, allora, per quanto riguarda le spese veterinarie, prima della normativa della franchigia di 250 euro si poteva detrarre il 19% se la spesa era superiore ai 129 euro e fino comunque a 387 euro. Ora questa nuova franchigia si sovrappone alla vecchia normativa solo per i soggetti che hanno un reddito complessivo superiore ai 15.000 euro. Quindi per questi soggetti il limite minimo di spesa sarà di 250 euro, per la parte superiore e fino a 380 euro abbiamo la detrazione del 19%, mentre per chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro le regole rimangono come prima, le stesse, le precedenti, quindi 129 euro fino a 387 euro, quell'importo lì che è di circa 200 euro, 250 euro, è possibile detrarlo al 19%. Allora, l'ultima considerazione la assegniamo ad Alberto da Saronno, che in realtà un po' riprende anche tutti i commenti che abbiamo fatto ad inizio trasmissione. E adesso chi mai più si farà fare, no Alberto, speriamo di no, uno scontrino fiscale di alcun tipo. Alberto, buongiorno, rapidissimo se ce la fa. Prima di tutto vorrei annotare che vi siete dimenticati di dire che non finisce lì il decreto, ma continua, vale a dire gli insegnanti dovranno lavorare di più, anziché 18 ore, 24 ore. Un prelievo del 0,05% sulla compravendita dei titoli azionari, ad esclusi i titoli di Stato. No, l'abbiamo detta la Tobin Tax, l'abbiamo già detta Alberto, si è perso prima. Grilli è riuscito a dire che è una scelta che migliora le condizioni delle famiglie e consente una ripresa della domanda interna. Ma come può una persona di una certa cultura dire queste cose? Ma come fa a dire che è una scelta che migliora le condizioni delle famiglie quando portiamo l'IVA l'IVA, non dico quella del 21 al 22, ma quella del 10, che è l'IVA degli alimenti, sì, la 10 ad 11. Alberto, abbiamo con la sua osservazione finale, spero, come dire, ben rappresentato tutti coloro che la pensano come lei. Effettivamente questo tema è stato sollevato da tanti, molto pochi credono appunto che questa possa essere una serie complessiva di misure destinate a rilanciare i consumi nel nostro paese, perché effettivamente in tasca ai contribuenti, Giovanni, arriveranno bricioline? Rischio no. Il problema è se invece di briciole rischia addirittura di costarci di più. Questo esatto, infatti, perché per i redditi bassi, sui quali la no tax area, che tra l'altro non abbiamo toccato, che non avrà nessun tipo di intervento fiscale né peggiorativo né migliorativo, gli arriva però l'aumento dell'IVA e quindi qui sono meno consumi, e questo è, su questo non ci piove. Grazie a Giovanni Parente, a Luca De Stefani per essere stati con noi, tanto ci ritorneremo a breve su questo argomento e continueremo a monitorare cosa sta cambiando per il fisco degli italiani. Noi ci risentiamo domani. A tutti, buona giornata.